storie italiane. La principessa e il drago. Questa è la storia di una principessa, ma non fatevi ingannare. Non sta aspettando che un affascinante principe venga a salvarla. Lei è diversa. Lei ha uno spirito guerriero. Molto tempo fa, la regina e il re desideravano avere un figlio. Così andarono nella foresta, alla ricerca dell'unicorno magico che esprime i desideri. Oh, grande unicorno! Siamo venuti per avere le tue benedizioni. Per favore, facci avere un bambino. Possiate voi essere benedetti con una bambina che riempirà di gioia le vostre vite. L'unicorno espresse così il loro desiderio e molto presto il regno ebbe la sua principessa. La regina e il re erano felicissimi. Oh mio tesoro, il tuo nome sarà Viola. Alla principessa vennero insegnate tutte le abilità di un guerriero, proprio come un principe: equitazione, lotta con le spade, autodifesa e altro ancora. Lei si esercitava di continuo e seguiva una dieta sana. La famiglia del re viveva in pace e armonia, fino al giorno in cui un messaggero segreto del re portò la notizia che il regno vicino aveva violato il trattato di pace e stava per attaccare il loro regno. L'intero regno era preoccupato, poiché non avevano abbastanza soldati per combattere. Il re era molto preoccupato. La principessa Viola sentì la regina parlare al re. Dobbiamo chiedere aiuto al re Tom. Il suo esercito può aiutarci e possiamo vincere la guerra. Non vedo alcuna speranza. L'esercito nemico è abbastanza forte. Persino l'esercito di re Tom non può aiutarci. Dobbiamo almeno provarci. Hai ragione, mia regina. Partirò domani mattina. Ma padre, non stai bene. Andrò io a prendere l'esercito. Mi fido di mia figlia. Lasciala andare. Va bene, principessa. In mia assenza, l'esercito deve essere preparato per l'attacco. Comandante, lascia a te il compito di prenderti cura del re e della regina. Sicuramente, principessa. Quindi la principessa prese la sua spada e il suo scudo, montò sul suo cavallo e partì per il viaggio. Sulla sua strada si fermò in un villaggio. Un abitante del villaggio disse una cosa molto strana alla principessa. Non puoi andare dall'altra parte della montagna. Un drago di fuoco vive sulla montagna in una grotta. Ti divorerà quando tenterai di passare davanti alla sua caverna. Nessun uomo o soldato coraggioso è mai tornato da lì. Non temo nulla in questo mondo. Attraverserò la montagna, costi quel che costi. Il drago viveva lì da migliaia di anni, ma nessuno l'aveva mai visto. Il suo alito di fuoco aveva bruciato tutto intorno alla sua caverna e niente vi cresceva. La coraggiosa principessa decise di affrontare il drago disarmata. Potente drago, ti ho portato dei fiori. Mi lasceresti rimanere nella tua caverna stasera per ripartire domani per il mio viaggio? Devo salvare il mio regno, altrimenti finiremo in mani crudeli. Il drago abbassò la testa e annusò il bouquet. Era così commossa da quel regalo che sorrise alla principessa. Io sono Fiona. Sei molto forte, proprio come me. Sei la prima persona che sia mai stata così gentile da farmi un regalo. Sarai mio ospite. Di notte, la principessa raccontò al drago la sua storia. La mattina seguente, la principessa lasciò la grotta e promise di tornare dopo 2 giorni. Grande re Tom, il nostro regno è in pericolo. Abbiamo bisogno del tuo esercito. Ci aiuterai? Sciocca ragazza, anche il mio esercito attaccherà il tuo regno. Adesso guarderai il tuo regno bruciare. Il re la catturò e la rinchiuse in una torre. Non avrei dovuto fidarmi di te. Fammi uscire. Il giorno in cui uscirò te ne pentirai. Il re non sapeva a cosa stava andando incontro. Fiona! Sono qui! Yeah! Potere delle ragazze! Fiona aprì le sbarre della prigione con un chiodo e salvò la principessa. Il re e il suo esercito si inginocchiarono di fronte a lei. La principessa quindi bloccò suo zio e ordinò all'esercito di raggiungere il castello. Andiamo, Fiona! Cara principessa, non abbiamo mai incontrato una principessa coraggiosa come te. Combatteremo i tuoi nemici al tuo fianco. La principessa Viola ritornò al suo castello con l'esercito e combatté la guerra. La principessa salvò il regno, la regina, il re e il capo dell'esercito. Il re disse alla principessa che i loro uomini erano riusciti a fuggire, ma che il capo dell'esercito era rimasto indietro per combattere ed era stato catturato. Beh, Peter, hai pensato a ciò che vuoi come ricompensa? Non io, la principessa ha salvato il regno e noi. La ammiro. Ammiro la sua forza e il suo coraggio. Mi piacerebbe sposare la principessa, se lei è d'accordo. Cosa ne pensi, figlia mia? Per favore, mi piacerebbe molto, perché ha mantenuto la sua parola senza temere per la sua vita. Bene, prendi la principessa e metà del regno come ricompensa per il tuo coraggio. Peter e Viola si sposarono e vissero felici e contenti. Insieme governarono il regno. E aspetta, il drago? Bene, Fiona tornò nella sua caverna perché era la sua casa e non fece mai più del male a nessuno. Piantò fiori che crebbero intorno alla caverna e visse felicemente con i suoi piccoli draghi. Thank you.